Capitolo 45. Persuasa com'era ormai che la signorina Bingley avesse cominciato a prenderla in uggia per motivi di gelosia, Elizabeth non poteva trattenersi dal pensare quanto la sua comparsa a Pemberley dovesse riuscirle sgradita, ed era curiosa di constatare con quanta correttezza da parte di quella dama si sarebbe rinnovata la loro conoscenza. Raggiunto il palazzo e attraversato il vestibolo, furono introdotte nel salotto, la cui posizione a nord lo rendeva soggiorno ideale per i mesi estivi. Le porte a finestra che si aprivano sul giardino consentivano di guardare con ristoro il panorama delle alte colline boscose dietro la casa e le belle querce e i frondosi castagni sparsi qua e là in secondo piano per il prato. In quella stanza furono dunque ricevute dalla signorina Darcy, che si trovava con la signora Hurst, la signorina Bingley e la signora con la quale abitava Londra. Georgiana le ricevette con molta cortesia, ma con quell'imbarazzo che, per quanto derivato da timidezza e dal timore di sbagliare, avrebbe dato facilmente a coloro che si sentivano il lignaggio inferiore al suo la sensazione che la fosse altezzosa e riservata. La signora Gardiner e la nipote, tuttavia, la giustificarono e la compatirono. La signora Hurst e la signorina Bingley accennarono soltanto a una reverenza e, quando si furono accomodate, seguì per qualche istante uno di quei silenzi impacciatissimi, come sono sempre i silenzi in tali casi. La prima a romperlo fu la signora Annesley, una persona distinta dall'aria simpatica, i cui sforzi di intavolare un qualunque argomento di conversazione la rivelarono in verità meglio educata delle altre due. E fra lei e la signora Gardiner, con l'aiuto sporadico di Elizabeth, la conversazione fu tirata avanti. La signorina Darcy sembrava chiedere al cielo di infondere il coraggio di associarvisi, e ogni tanto, quando la probabilità di farsi udire era minima, si arrischiava a pronunciare una brevissima frase. Elizabeth si accorse presto di essere attentamente osservata dalla signorina Bingley e di non poter dire una parola, specie se rivolta alla signorina Darcy, senza richiamare il suo interesse. Il fatto di essere così sorvegliata non le avrebbe impedito di cercare di conversare con quest'ultima, se non che erano sedute a troppa distanza. Del resto, non le rincresceva che le fosse risparmiata la fatica di parlare troppo. Era abbastanza presa dai suoi pensieri. Si aspettava che da un momento all'altro qualcuno dei signori entrasse nella stanza. Desiderava, temeva, che fra questi potesse essere il padrone di casa e non avrebbe saputo precisare se fosse maggiore il desiderio o il timore. Dopo essere rimasta seduta un quarto d'ora in questo stato d'animo, senza nemmeno udire la voce della signorina Bingley, Elizabeth fu ridestata dai suoi sogni, dalla compassata richiesta di quest'ultima sulla salute dei suoi familiari. Le rispose con pari freddezza e concisione: e l'altra non parlo più. La successiva variante concessa loro in quella visita fu costituita dall'ingresso dei domestici con carne fredda, dolci e una scelta di tutte le frutte più raffinate della stagione. Ma ciò non avvenne prima che la signora Annesley avesse scambiato con la signorina Darcy parecchie occhiate e sorrisetti d'intesa per rammentarle il suo compito di padrona di casa. Ora la comitiva aveva trovato un'occupazione. Se non tutte sapevano conversare, erano però tutte in grado di mangiare, e le belle piramidi di uva, arance e pesche le radunarono intorno alla tavola. Mentre erano così occupate, Elizabeth ebbe modo di stabilire se più temesse o desiderasse la comparsa del signor Darcy in base ai sentimenti che l'agitarono nel momento in cui egli varcò la soglia della sala. Allora, sebbene soltanto un istante prima avesse creduto che predominasse lei il desiderio, cominciò a rimpiangere che fosse venuto. Egli si era intrattenuto un poco col signor Gardiner, che in compagnia di due o tre altri ospiti del palazzo si stava divertendo in riva al fiume, e l'aveva lasciato soltanto nell'apprendere da lui che le signore della sua famiglia avevano intenzione di fare quella mattina una visita a Georgiana. Era appena comparso che Elisabeth aveva già preso la saggia risoluzione di mostrarsi perfettamente disinvolta e spigliata, risoluzione tanto più necessaria a prendersi, ma forse non altrettanto facile a mantenersi, in quanto si accorse a essere i sospetti di tutti i presenti ben desti nei loro confronti. Non c'era, si può dire, sguardo che al suo apparir nella stanza non fosse pronto a sorvegliare il suo contegno. Nessun viso, però, esprimeva più palesemente attenta curiosità di quello della signorina Bingley, nonostante i sorrisi che la illuminavano tutta ogni volta che si rivolgeva ad una di loro. Poiché la gelosia non le aveva ancora tolto ogni speranza e non aveva smesso affatto di rivolgere al signor Darcy tutte le sue premure. Entrato il fratello, La signorina Darcy si sforzò di parlare di più ed Elizabeth si avvide che la conoscenza fra la sorella e lei stava molto a cuore a Darcy, il quale incoraggiava con ogni mezzo qualsiasi tentativo di scambiare parola, sia da una parte che dall'altra. Anche la signorina Bingley se ne avvise e, lasciandosi trasportare dalla stizza, colse la prima occasione favorevole per dire come far da cortesia. «Di grazia, signorina Lizzy, è vero che la milizia del Shire ha lasciato Meryton. Per la sua famiglia deve essere stata una perdita molto grave.» In presenza di Darcy non osò fare il nome di Wickham, ma Elizabeth comprese immediatamente che gli stava in cima a tutti i pensieri di lei e i ricordi che a lui si collegavano le diedero un attimo di sgomento. Tuttavia, chiamando a raccolta ogni sua energia per respingere quel maligno attacco, rispose quasi subito alla domanda in tono sufficientemente disinvolto. Mentre parlava, un'involontaria occhiata le rivelò Darcy, che col viso alterato la guardava intensamente, e Georgiana, che sopraffatta dalla confusione era incapace di alzare gli occhi. Se la signorina Bingley avesse saputo quanto male stava facendo al suo amico diletto, si sarebbe certo tenuta per sé quell'allusione, ma ella si era proposta di turbare Elizabeth, insinuando il pensiero di un uomo verso il quale la riteneva portata, ed indurla in tal modo a tradire un sentimento che potesse pregiudicarla nell'opinione di Darcy, rievocando forse alla mente di quest'ultimo tutte le frivolezze e le scempiaggini per cui, grazie al correggimento, una parte della famiglia di lei si era trovata così compromessa. Della meditata fuga della signorina Darcy non una sillaba le era giunta all'orecchio. Ove la segretezza era stata possibile, la cosa non era stata confidata ad anima viva, salvo che ad Elizabeth. E il fratello aveva tenuto in modo speciale a celarla a tutti i parenti di Bingley, per quel medesimo desiderio che tanto tempo addietro Elizabeth le aveva attribuito, che si potessero diventare col tempo parenti di Georgiana stessa. Senza dubbio egli aveva vagheggiato quel progetto e senza che volesse far dipendere proprio dalla sua realizzazione il tentativo di allontanare l'amico della signorina Bennet, è probabile che esso aggiungesse qualcosa al suo vivo interesse per il bene di Bingley. Il contegno fermo di Elizabeth, tuttavia, lo aiutò presto a calmare la sua emozione. La signorina Bingley, delusa e seccata, non osò fare altri accenni a Wickham e Georgiana, che pure si era ripresa, non fu però più capace di dire una parola. Suo fratello, del quale temeva di incontrare lo sguardo, si rammentò appena dell'interesse che la cosa presentava per lei, e proprio la circostanza voluta per distogliere il pensiero di lui da Elizabeth sembrò farvelo indugiare con gioia sempre maggiore. La visita non si protrasse granché dopo la domanda e la risposta di cui si è detto più sopra, e mentre il signor Darcy riaccompagnava le signore alla carrozza, la signorina Bingley sfogava i suoi sentimenti criticando la persona di Elizabeth, il suo contegno, i suoi vestiti. Ma Georgiana non volle tenerle bordone. Ad assicurare il suo favore bastava per lei la raccomandazione del fratello. Il suo giudizio non poteva errare, ed egli aveva parlato di Elizabeth in termini tali da non lasciare a Georgiana che la possibilità di trovarla bella e gentile. Quando Darcy tornò in salotto, la signorina Bingley non seppe trattenersi da ripetere a lui parte di quello che era andata dicendo a sua sorella. Che aspetto patito aveva stamane Lizzy Bennet, signor Darcy? Ella esclamò. In vita mia non ho mai visto nessuno di tanto cambiato come lei da quest'inverno. È diventata così bruna e grossolana. Luisa e io eravamo d'accordo nel dire che non l'avremmo riconosciuta. Per quanto poco gradito questo appello potesse riuscire al signor Darcy, egli si accontentò di rispondere freddamente che non aveva riscontrato altro mutamento se non quello derivante da un po' di abbronzatura. Nulla di prodigioso in una persona che viaggia d'estate. Per conto mio, devo confessare che non sono mai riuscita a vederla bella. Ho un viso troppo magro, una carnagione opaca e lineamenti punto fini. Quel naso manca di carattere, così poco marcato com'è. Ha una dentatura discreta, ma niente di speciale. Quanto ai suoi occhi, che sono stati talvolta definiti belli, io non ci ho mai veduto nulla di straordinario. Hanno uno sguardo penetrante, acuto, che non mi piace affatto. E tutti insieme venne il suo modo di fare una presunzione così sgraziata che è insopportabile. Persuasa com'era la signorina Bingley che Darcy avesse dell'ammirazione per Elizabeth, non era quello il mezzo migliore per ringraziarselo. Ma l'ira non sempre si concilia col senno, e vedendolo finalmente un tantino punto, ella trovò ad aver ottenuto tutto il successo che si aspettava. Egli si manteneva però ostinatamente muto e, decisa a farlo parlare, ella continuò. Mi rammento che quando facemmo la sua conoscenza nello Herefordshire, noi tutti ci meravigliammo di scoprire che passava per una famosa bellezza. E mi ricordo in modo speciale di quello che ebbe a dire lei una sera dopo che si erano trattenuti a Netherfield per la cena. Una bellezza quella lì. Tanto vorrebbe dire che sua madre è un genio. Ma dopo da allora pare che sia aumentata nella sua stima e credo che lei sia giunta perfino a trovarla abbastanza graziosa. Sì? Rispose Darcy, incapace di trattenersi ancora. Quello avvenne proprio agli albori della nostra conoscenza, perché sono molti mesi ormai che ho imparato a considerarla una delle più belle donne che io conosca. Poi se ne andò e la signorina Bingley venne lasciata in balia della soddisfazione di averlo costretto a dire ciò che non faceva dispiacere a nessuno se non a lei stessa. Nel viaggio di ritorno, la signora Gardiner e il re ed Elizabeth conversarono di tutto ciò che era accaduto durante quella visita, salvo dell'argomento che le aveva entrambe interessate in modo particolare. Commentarono gli sguardi e il contegno di tutti quelli che avevano visto, tranne quelli della persona che più aveva vinto la loro attenzione. Parlarono di sua sorella, delle sue amiche, della sua casa, della sua frutta, di tutto insomma, tranne che di lui. Eppure Elizabeth era ansiosa di sapere ciò che ne pensasse la signora Gardiner, e la signora Gardiner avrebbe dato chissà cosa perché la nipote fosse la prima ad affrontare l'argomento. Capitolo 46. Arrivata a Lambton, Elizabeth era rimasta molto delusa di non trovare una lettera di Jane, e quella delusione si era rinnovata ogni mattina del suo soggiorno colà. Ma il terzo giorno non ebbe più ragione di lagnarsi, e sua sorella fu giustificata dall'arrivo contemporaneo di due lettere. Una delle quali recava l'indicazione che era stata spedita altrove per errore. Elizabeth non se ne stupì, poiché Jane aveva in verità scritto assai male l'indirizzo. Quando le lettere giunsero, si stavano appunto accingendo tutti a fare una passeggiata. Lo zio e la zia si incamminarono da soli, lasciando lei il piacere di leggersele in solitudine. La prima ad aprire era quella con l'indirizzo sbagliato, era di 5 giorni addietro. Cominciava con un resoconto di tutte le festicciole e degli altri loro impegni con le notizie offerte da quelle località, ma la seconda metà, datata di un giorno più tardi e scritta in evidente agitazione, recava nuove più importanti. Era del seguente tenore. Da che ho scritto quanto sopra, Lizzie carissima, è accaduto qualcosa di assolutamente grave e inatteso, ma temo di allarmarti. Sta tranquilla, che stiamo tutti bene. Ciò che ti devo dire riguarda la povera Lydia. Ieri sera a mezzanotte, quando già eravamo tutti a letto, giunse portata da un corriere una lettera del colonnello Forster, il quale ci informava che nostra sorella se n'era partita per la Scozia con uno dei suoi ufficiali. Per dire la verità, con Wickham. Figurati la nostra sorpresa. A Catherine però la cosa non sembra del tutto inaspettata. Io sono addoloratissima. Un'unione tanto sconsiderata da ambo le parti. Ma voglio sperare per il meglio e che il carattere di lui sia stato incompreso. Posso facilmente crederlo spensierato e senza giudizio, ma questo passo, e rallegriamoci che sia avvenuto, rivela una certa bontà di cuore. La sua scelta è quantomeno disinteressata, perché deve pur sapere che il babbo non è in grado di darle nulla. La nostra povera mamma è quantomai rattristata, ma papà sopporta meglio il colpo. Come sono contenta di non averli mai messi al corrente di quanto è stato detto contro di lui. Noi stesse dobbiamo scordarcene. Si crede che siano partiti sabato sera verso la mezzanotte, ma la loro assenza non è stata notata fino a ieri mattina alle 8. Il messaggio è stato spedito subito dopo. Devono essere passati a 10 miglia da noi, Lizzie cara. Il colonnello Forster ci dà motivo di aspettare presto il ritorno di lui qui, a Longbourn. Lydia ha lasciato poche righe per la sua signora, informandola della loro intenzione. Devo smettere. Perché non posso rimanere a lungo lontana dalla povera mamma. Temo che non riuscirai a raccapezzartici. Non so quasi neppure io quello che ho scritto. Senza concedersi il tempo di riflettere, senza quasi sapere che cosa provava, appena terminata la lettura di questa lettera, Elisabetta afferrò immediatamente l'altra e, apertale con la massima impazienza, vi lesse quanto appresso. Era stata scritta un giorno più tardi della seconda parte della precedente. Ormai, sorellina carissima, avrai ricevuto la mia lettera affrettata. Spero che questa sia più intellegibile, ma sebbene non sia limitata dal tempo, ho la mente così confusa che non posso rispondere della mia coerenza. Cara Lizzie mia, non so proprio che cosa vorrei scriverti. So soltanto che ho per te cattive notizie e che non posso tardare a dartele. Per quanto incauto ci apparisse un matrimonio fra il signor Wickham e la nostra povera Lydia, adesso siamo ansiosi di essere rassicurati che esso sia avvenuto, poiché ci sono purtroppo tutti i motivi di ritenere che in Scozia non siano andati. Ieri è arrivato il colonnello Forster, che aveva lasciato Brighton il giorno prima, non molte ore dopo il suo corriere. Sebbene la letterina di Lydia, la signora Forster, lasciasse capire che erano partite la volta di Gretna Green, Danny si lasciò sfuggire qualche cosa da cui trapelò la sua persuasione che Wickham non avesse nessuna intenzione di recarvesi, né di sposare Lydia. Quando la cosa giunse all'orecchio del colonnello Forster, questi, subito allarmato, partì da Brighton con l'intenzione di seguire le loro tracce. Riuscì infatti a rintracciarli fino a Clapham, ma non oltre, giacché quivi arrivati avevano preso una vettura da Nolo e lasciato in libertà la carrozza che li aveva accompagnati ad Epsom. Tutto quel che risulta dopo di ciò è che sono stati visti continuare sulla strada di Londra. Io non so che pensare. Dopo aver svolto ogni possibile indagine in quel quartiere di Londra, il colonnello Forster venne nello Herefordshire, continuando a rinnovare ansioso le sue ricerche ad ogni barriera, in ogni locanda di Barnet e di Hatfield, ma senza successo. Nessuno aveva veduto passare due persone come quelle. Con premurosa sollecitudine, egli proseguì fino a Longbourn e ci mise a corrente delle sue apprensioni in un modo che faceva davvero onore al suo cuore. Mi dispiace molto per lui e per la sua signora. Nessuno però può attribuire loro la minima colpa. Siamo proprio disperati, Lizzie mia. Il babbo e la mamma sono sicuri del peggio, ma io non posso pensare così male di lui. Può darsi che un cumulo di circostanze renda più consigliabile per loro di sposarsi in forma privata in città piuttosto che attenersi al primitivo progetto. E anche se egli fosse capace di concepire un piano del genere, cosa che non ritengo probabile, a danno di una ragazza come Lydia. Vuoi che io creda lei così perduta? Non è possibile. Mi duole comunque di constatare che il colonnello Forster non è propenso a fare assegnamento sul loro matrimonio. Ha scosso il capo quando io ho espresso le mie speranze e ha detto di aver timore che Wickham non fosse uomo degno di fiducia. La povera nostra mamma sta veramente male e non lascia la sua camera. Se potesse reagire sarebbe meglio, ma non bisogna aspettarselo. Quanto al babbo, mai in vita mia l'ho visto così accasciato. Kitty, poverina, è crociata per aver tenuto nascosto il loro amore, ma non c'è da farsene meraviglia, poiché si tratta di una confidenza. Sono davvero contenta che tu, mia cara Lizzie, abbia potuto risparmiarti alcune di queste scene sconvolgenti, ma ora che il primo colpo è passato, devo confessarti che non vedo l'ora che tu ritorni. Non sono però tanto egoista da insistere, se non ti è comodo. Addio. Riprendo la penna per chiederti quello che ti ho appena detto che non avrei voluto chiederti. Ma le cose stanno in modo che non posso fare a meno di pregarvi tutti di tornare qui al più presto. Conosco così bene i miei zii che non mi faccio scrupolo di chieder loro questo favore, benché allo zio abbia ancora qualcosa da domandare. Papà parte subito per Londra col colonnello Forster per cercare di scoprirli. Che cosa abbia intenzione di fare? Io non lo so di certo, ma lo stato di estremo abbattimento in cui versa non gli consentirà di prendere le opportune misure nel modo migliore e più sicuro. Il colonnello Forster è costretto a trovarsi nuovamente a Brighton domani sera. In tal situazione, perciò il consiglio e l'aiuto dello zio sarebbe tutto per lui. So che egli comprenderà senza esitare il mio stato d'animo e conto sul suo buon cuore. Oh, dov'è mio zio? Gridò Elizabeth, balzando dalla sedia appena terminata la lettera, per seguirlo subito, senza perdere un attimo di tempo che poteva riuscir prezioso. Ma quando raggiunse la porta, questa fu aperta da un domestico e il signor Darcy comparve. Il pallore e l'impeto di lei lo fecero sussultare e prima che avesse il tempo di riprendersi abbastanza per parlare, Elizabeth, che non aveva più mente, peraltro che per la situazione di Lydia, esclamò affrettatamente: «Scusi tanto, ma devo lasciarla. Devo trovare subito il signor Gardiner per una questione che non la mette in dubbio. Non ho un istante da perdere». Dio santo, ma che succede? Gli esclamò a sua volta con più sentimento che distinzione, poi riprendendosi. Non la tratterò un solo istante, ma lasci che a cercare il signor Gardiner vada io o ci vada un domestico. Lei non sta abbastanza bene, non può andare. Elisabeth esitò, ma si sentì tremare le ginocchia e comprese quanto vano sarebbe riuscito ogni tentativo da parte sua di rintracciare gli zii. Richiamato perciò il domestico, gli ordinò, sebbene con voce così rotta da farsi capire a stento, di ricondurre subito a casa i padroni. Uscito che fu, il servitore si sedette, incapace di sostenersi, con un'aria così abbattuta che Darcy giudicò impossibile lasciarla e che gli fece dire con accento di delicata compassione: «Lasci che le chiami la cameriera. Non potrebbe prender nulla ora che le desse un po' di sollievo, un bicchiere di vino. Glielo vado a prendere io. Lei sta molto male.» «No, la ringrazio. Non ho nulla, sto bene. Sono semplicemente disperata per certe bruttissime notizie che ho ricevuto ora da Longbourn.» Così dicendo, scoppiò in lacrime e per qualche minuto non riuscì a proferir parola. Darcy, addolorato ed esitante, seppe soltanto esprimere confusamente la sua partecipazione e la guardò pieno di muta pietà. Finalmente ella parlò di nuovo. «Ho ricevuto adesso una lettera da Jane con orribili notizie. È inutile cercare di nasconderle. La mia sorella minore ha lasciato tutti i suoi amici, è scappata, si è data in balia del signor Wickham. Sono fuggiti insieme da Brighton. Lei appunto lo conosce troppo bene per dubitare del resto. Lydia non ha denari, non ha casato, non ha nulla che possa tentarlo, è perduta per sempre.» Darcy era come paralizzato dallo stupore. «Quando penso», e la soggiunse in tono ancora più agitato, «che io avrei potuto impedirlo, io che sapevo chi era lui, se soltanto avessi rivelato in parte, in piccola parte, ciò che avevo preso sul suo conto i miei familiari. Se avessero conosciuto che specie di uomo era, forse questo non sarebbe accaduto. Ma adesso è troppo tardi. Sono sinceramente addolorato, addolorato, allibito, ma è sicuro, assolutamente sicuro. Sì. Hanno lasciato insieme Brighton domenica sera e sono stati rintracciati quasi fino a Londra, ma non oltre. Certamente non sono andati in Scozia. E che cosa si è fatto? Che cosa è stato tentato per ritrovarla? Mio padre è andato fino a Londra e Jane ha scritto per chiedere l'aiuto immediato di mio zio. Fra mezz'ora spero partiremo. Ma non c'è nulla da fare. So benissimo che non c'è nulla da fare. Come si può indurre alla ragione un individuo come quello? Come si riuscirà anche soltanto a scoprirli? Non ho la minima speranza. È una cosa tremenda in tutti i sensi.» Darcy scosse il capo in muto consenso. «Quando mi furono aperti gli occhi sulla sua vera natura? Ah, se avessi saputo quel che dovevo, quel che potevo fare! Ma io non lo sapevo, avevo timore di far troppo, disgraziatissimo errore!» Darcy non rispose. Sembrava udirla appena passeggiava su e giù per la stanza, assorto in grave meditazione, la fronte contratta, cupo in volto. Tosto Elizabeth se ne accorse e subito comprese. Il suo prestigio era sul punto di crollare. Tutto era destinato a crollare dinanzi a una simile prova di debolezza familiare. Una siffatta certezza di profondo disonore. Non poteva né sorprendersene né condannarlo. E però la convinzione che egli fosse riuscito vittorioso non recava alcun conforto al suo cuore, non offriva sollievo alla sua miseria. Al contrario, quella certezza sembrava calcolata apposta per farle veder chiaro nei propri desideri, e mai aveva intuito con tanta chiarezza che avrebbe potuto amarlo come ora, quando il suo amore doveva essere vano. Ma il pensiero di sé, per quanto cercasse di insinuarsi, non poteva occuparla del tutto. Lydia, l'umiliazione, il disdoro in cui stava gettando la famiglia, sopraffecero ben presto ogni preoccupazione personale e, coprendosi il viso col fazzoletto, Elizabeth fu subito dissolta da ogni altro pensiero. Dopo un silenzio di parecchi minuti, fu richiamata alla realtà della situazione dalla voce del suo compagno, il quale, in tono che rivelava al contempo stesso compassione e riservo, le disse: «Temo che da tempo ormai le desideri io me ne vada. Né io posso trovare alcuna giustificazione al mio rimanere se non nel mio sincero, benché vano, cordoglio. Volesse il cielo che qualcosa io potessi dire o fare per sollevarla in tanto dolore, ma non voglio tormentarla coi miei inutili auguri, che possono sembrare pronunciati apposta per pretendere i suoi ringraziamenti. Questa disgraziata faccenda toglierà a mia sorella, temo, il piacere di vederla oggi a Pemberley. Oh, certo. Sia così gentile da scusarsi con la signorina Darcy. Le dica che degli affari urgenti ci richiamano a casa immediatamente. Tenga celata la triste verità finché sarà possibile. So che non può essere per molto.» Egli fu pronto a prometterle il segreto, rinnovò l'espressione del suo rammarico per la pena che l'affliggeva, augurò una conclusione più lieta di quanto non fosse lecito sperare per il momento e, lasciando i suoi omaggi per i parenti di lei, con un solo grave sguardo d'addio se ne andò. Appena fu uscito dalla stanza, Elizabeth comprese quanto era improbabile che si rivedessero in quei rapporti di cordialità che avevano caratterizzato i loro vari incontri nel Derbyshire, e nel dare un'occhiata retrospettiva a tutto l'insieme della loro conoscenza, così piena di contraddizioni e di mutamenti, sospirò sull'incoerenza dei propri sentimenti. Si accorse che ora avrebbe auspicato il prolungarsi di una relazione che un tempo si sarebbe rallegrata di veder cessare. Se la riconoscenza e la stima sono buon fondamento all'affetto, il nuovo stato d'animo di Elizabeth non potrà apparire né inverosimile né biasimevole. Ma se invece una simpatia nata da codeste premesse fosse irragionevole o naturale in confronto a quella che, come spesso si afferma, scaturisce a un primo incontro, e anzi, ancor prima che siano state scambiate due parole, nulla si potrà dire allora in sua difesa. Soltanto che quest'ultimo metodo era stato messo da lei alla prova nella sua inclinazione per Wickham e che l'insuccesso riportatore l'autorizzava ad attenersi all'altro meno interessante modo di amare. Comunque fosse, Elizabeth lo vide partire con rimpianto e in quel primo esempio di ciò che la vergogna di Lydia avrebbe cagionato, sentì alimentare la sua angoscia nel ripensare alla sciagurata vicenda. Mai, da quando aveva letto la seconda lettera di Jane, aveva nutrito la minima speranza che Wickham intendesse sposarla. Nessuno all'infuori di Jane, pensò, poteva lusingarsi in un'illusione del genere. In tutta quella storia la sorpresa era semmai l'ultimo dei suoi sentimenti. Mentre le rievocava ora col pensiero il contenuto della prima lettera, si ricordava che era stata fin da allora meravigliatissima, sbalordita l'idea che Wickham sposasse una ragazza che era impossibile sposare per i quattrini. Come poi Lydia fosse mai riuscita ad attrarlo, le appariva incomprensibile, ma ora era tutto fin troppo chiaro. Per una relazione del genere, Lydia aveva forse fascino sufficiente, e benché non la supponesse capace di impregnarsi deliberatamente a fuggire senza l'intenzione di farsi sposare, Elisabetta non aveva difficoltà ad ammettere che né virtù né senno l'avrebbero trattenuta da diventare facile preda. Finché il reggimento era rimasto nello Herefordshire, non si era mai accorta che Lydia avesse un particolare debole per lui, ma era persuasa che un po' di incoraggiamento bastasse per farla invaghire di chiunque. Ora questo, ora quell'ufficiale era stato il preferito, a seconda che le attenzioni tributatele lo elevava nella sua stima. I suoi affetti erano stati sempre oscillanti, ma mai senza un oggetto. Come capiva adesso il guaio di averne trascurata l'educazione? Di aver mostrato un'errata indulgenza verso una ragazza simile. Si struggeva dal desiderio di essere a casa, di ascoltare, di vedere, di essere sul posto, a dividere con Jane le preoccupazioni che ora dovevano tutte ricadere su di lei in una famiglia così sconvolta, il padre assente, la madre incapace di qualunque reazione e bisognosa di continua assistenza, e benché fosse pressoché convinta che nulla si poteva tentare per Lydia, l'intervento dello zio le sembrava di un'estrema importanza, tanto che si sentì travagliata dall'impazienza finché non lo vide entrare nella stanza. I signori Gardiner erano tornati in fretta, allarmatissimi, supponendo dal racconto del domestico che la loro nipote si fosse sentita male improvvisamente. Ella li tranquillò subito su quel punto e comunicò loro, angustiata, la ragione per cui li aveva fatti chiamare, leggendo le due lettere ad alta voce e soffermandosi con commossa enfasi sul poscritto della seconda. Sebbene Lydia non fosse mai stata loro particolarmente cara, i signori Gardiner non poterono fare a meno di rimanere profondamente afflitti. Non Lydia soltanto, ma tutti loro erano coinvolti nella faccenda e dopo le prime esclamazioni di sorpresa e di orrore, il signor Gardiner promise di offrirle tutto l'aiuto di cui era capace. Quantunque non si aspettasse di meno, Elizabeth lo ringraziò con lacrime di gratitudine ed essendo tutti e tre spinti da una stessa idea, si accordarono in breve su ogni punto concernente il viaggio. Dovevano partire al più presto. Ma che fare con Pemberley? Esclamò la signora Gardiner. John ci ha detto che c'era il signor Darcy quando ci hai mandato a chiamare, è vero? Sì, e gli ho detto che non avremmo potuto mantenere l'impegno. Quanto a questo, tutto è a posto. Che cosa, è tutto a posto? Si ripete l'altra, correndo in camera per prepararsi. Sono dunque in termini tali che lei debba avergli rivelato la verità? Potessi sapere come stanno le cose. Ma era inutile sperare di saperlo. Tutt'al più, quel pensiero poteva servire a distrarla nella fretta e nella confusione dell'ora successiva. Se Elizabeth avesse potuto concedersi il lusso di oziare, non avrebbe tardato a convincersi che qualunque occupazione era impossibile per una creatura afflitta come lei, ma aveva anche lei la sua parte di dar fare quanto la zia. Oltre al resto, occorreva scrivere una serie di biglietti a tutti i conoscenti di Lenton con false scuse per la loro improvvisa partenza. In un'ora, però, ogni cosa fu sistemata, e poiché frattanto il signor Gardiner aveva pagato il conto dell'albergo, altro non rimase che partire. Così, dopo tutte le sofferenze della mattina, Elizabeth si trovò più presto di quanto non avrebbe immaginato seduta in carrozza e sulla via di Longbourn. Capitolo 47. Ci ho pensato e ripensato, Elizabeth, le disse lo zio mentre si allontanavano dalla città, e in coscienza, dopo matura riflessione, sono adesso molto più propenso a giudicare la faccenda come la tua sorella maggiore. Mi sembra così inverosimile che un giovane possa concepire un piano del genere a danno di una ragazza che non è affatto priva di protezione e di amicizie e che dopo tutto era ospite del suo colonnello, che sono fortemente incline a sperare il meglio. Poteva forse credere che gli amici di lei non si sarebbero mossi? Poteva aspettarsi di essere preso ancora in considerazione dal reggimento dopo un simile affronto al colonnello Forster? La tentazione non è pari al rischio. Lo crede davvero? Esclamò Elizabeth, illuminandosi tutta per un istante. Parola d'onore. Comincio anch'io ad essere del parere di tuo zio, interloquì la signora Gardiner. È davvero una violazione troppo palese del decoro, dell'onore, dell'interesse perché se ne renda colpevole. Io non riesco a pensare così male di Wickham. E tu, Lizzy, ti senti di buttarlo a mare al punto da crederlo capace di tanto? Non forse di trascurare il proprio interesse, ma di ogni altra trasgressione. Lo credo capace davvero. Ah, se soltanto fosse come voi dite. Ma non oso sperarlo, perché non sarebbero proseguiti per la Scozia in tal caso. Prima di tutto, ribatté il signor Gardiner, non abbiamo la prova assoluta che non siano andati in Scozia. Oh, ma il fatto che abbiano lasciato la carrozza per prendere una vettura da Nolo è un tale indizio. E poi non si è trovata traccia di loro su tutta la strada di Barne. Ebbene, allora supponiamo che siano a Londra. Può darsi che vi si trovino, seppur con lo scopo di restare nascosti senza altro fine particolare. Non è probabile che né l'uno né l'altra nuotino nell'oro. E forse hanno pensato che a Londra si possono sposare con minor spesa, anche se con minore rapidità che non in Scozia. Ma perché tutta questa segretezza? Perché questo timore di venire scoperti? Perché il matrimonio deve essere fatto di nascosto? No, no, non è verosimile. Il suo più intimo amico, lo vedete dal racconto di Jane, era convinto che non avesse la più lontana intenzione di sposarla. Wickham non sposerà mai una donna senza quattrini. Non se lo può permettere. E quali vezzi, quali attrattive ha Lydia all'infuori della gioventù, della salute, del buon umore, che potrebbero indurre lui a trascurare per amor suo ogni possibilità di sistemazione con un buon matrimonio. Fino a tal punto, poi, il timore di cadere in disgrazia presso il reggimento si è avvalso a frenarlo nella sua sciagurata fuga con lei. Non sono in grado di giudicare, poiché sono affatto ignara delle conseguenze che un passo del genere potrebbe causare. Quanto all'altra vostra obiezione, però, temo che non si sostenga. Lydia non ha fratelli che si facciano avanti, e dalla condotta di mio padre, dalla sua indolenza e dalla scarsa attenzione che ha sempre mostrato di prestare a quanto avveniva in famiglia, Wickham era autorizzato a credere che in questo caso si sarebbe poco incaricato della cosa e avrebbe fatto il minimo rispetto a un altro genitore. Ma puoi credere che Lydia sia così staccata da tutto, così innamorata di lui da consentire a vivere con lui in altri termini che non siano quelli del matrimonio? A quanto pare sì, rispose Elizabeth con le lacrime agli occhi. Ed è veramente terribile che sia dato di dubitare del decoro e della virtù della propria sorella su un punto simile. Non so proprio che cosa dire, forse. Non sono giusta con lei, ma è molto giovane. Non le è mai stato insegnato a pensare a cose serie. È da 6 mesi a questa parte, che dico, da un anno intero, non ha più pensato che ai divertimenti e alle frivolezze. Le è stato permesso di disporre del suo tempo nel modo più vano, più fatuo e di inseguire tutti i grilli che le passavano per il capo. Da quando il Shire prese stanza a Meryton, non ha più avuto in mente che l'amore, i corteggiamenti e gli ufficiali. Ha fatto tutto quel che era in suo potere, col parlare, pensare a questi argomenti, per acuire la, come dire, l'emotività dei propri sentimenti, i quali sono per natura abbastanza acuti. E sappiamo tutti che Wickham ha fascino personale e belle maniere sufficienti a sedurre una donna. Ma vedi pure che Jane non pensa così male di Wickham da crederlo capace di una simile azione, e disse la zia. Di chi mai pensa male, Jane? E chi esiste al mondo in cui ella supporrebbe una cosa del genere, qualunque possa essere stata la precedente sua condotta, finché i fatti non lo provino? Ma Jane sa quanto me veramente chi è Wickham. Tutte e due sappiamo che è stato un dissoluto nel pieno senso della parola, che non conosce né rettitudine né onore, che è falso, imbroglione, quanto è insinuante. E tu ne sei proprio sicura? Esclamò la signora Gardiner, curiosissima di apprendere in che modo si era procurata tante informazioni. Sì che lo sono, rispose Elisabetta arrossendo. Le ho riferito l'altro giorno del suo ignobile comportamento nei confronti del signor Darcy e lei stessa, quando fu a Longbourn l'ultima volta, udì in che modo egli parlasse dell'uomo che era stato con lui così generoso e indulgente. Ci sono poi altre circostanze che non mi ha consentito, che non vale la pena di riferire, ma le sue menzogne a proposito di tutta la famiglia di Pemberley sono senza fine. Da quanto aveva detto della signorina Darcy, io ero preparata a conoscere una fanciulla altezzosa, riservata, antipatica, eppure lui stesso sapeva che era vero il contrario. Doveva sapere che era invece una creatura amabile e semplice come l'abbiamo trovata noi. Ma di questo Lydia non sa nulla. Possibile che sia all'oscuro di ciò che tu e Jane sembrate conoscere così a fondo? Oh sì! È questo appunto il peggio. Finché non fui nel Kent e non ebbi così frequente occasione di trovarmi tanto col signor Darcy che con suo cugino, il colonnello Fitzwilliam, io stessa ignoravo la verità. E quando tornai a casa, il Shire doveva lasciare Meryton di lì una settimana o 15 giorni. Stando così le cose, né Jane, alla quale avevo raccontato tutto, né io ritenemmo necessario rendere di pubblico dominio le nostre informazioni, poiché evidentemente a che poteva servire che la buona opinione che la contrada si era fatta di noi venisse rovesciata? E anche quando fu stabilito che Lydia dovesse accompagnare la signora Forster, non mi venne in mente che fosse necessario aprirle gli occhi sull'indole di lui. Non mi balenò mai il sospetto che proprio lei dovesse trovarsi in pericolo per quel piccolo inganno e che ne dovesse poi derivare una conseguenza di questo genere. Lei mi crederà, era ben lungi dal mio pensiero. Perciò, quando partirono tutti per Brighton, tu non avevi motivo di crederli innamorati, neppur per sogno. Non riesco a rammentarmi nessun sintomo d'affetto né da una parte né dall'altra, e se per qualche cosa del genere fosse stata percettibile, lei deve essersi accorta che non è la nostra famiglia da passarci sopra con indifferenza. In principio, quando egli entrò a far parte del reggimento, Lydia era abbastanza disposta ad ammirarlo, ma lo eravamo tutte. Per i primi 2 mesi ogni ragazza di Meryton o dei dintorni è andata pazza per lui, ma egli non l'ha mai fatta segno particolare attenzione. Per cui, dopo un certo periodo di sfrenata e insensata ammirazione, l'entusiasmo per lui sbollì e altri ufficiali del reggimento, che l'avevano trattata con maggior riguardo, ridivennero i prediletti. È facile credere che, per quanto poco di nuovo, la reiterata discussione di quell'appassionante argomento potesse aggiungere ai loro timori, alle speranze, alle supposizioni. Nessun altro riuscì a intrattenerli a lungo per tutta la durata del viaggio. Dalla mente di Elisabeth non si allontanava un istante, e poiché il più acuto tormento, quello del rimorso, ve la costringeva, non le fu facile trovare un momento di tregua e di oblio. Viaggiarono con la massima rapidità possibile e, dormendo una notte per strada, arrivarono a Longbourn l'indomani per l'ora di pranzo. Per Elizabeth era di conforto pensare che Jane non avesse dovuto consumarsi in una lunga attesa. Quando entrarono dal cancelletto, i piccoli Gardiner, attratti dalla vista di una carrozza, stavano sui gradini di casa e, quando la vettura si fermò davanti alla porta, la gioiosa sorpresa che illuminò i loro volti e si manifestò in tutte le loro personcine con una varietà di capriole e di salti fu la prima gradita riprova della loro affettuosa accoglienza. Quando Con un balzo Elizabeth fu fuori della carrozza e dopo aver dato in gran fretta un bacio per uno ai bambini, passò rapida nell'entrata dove Jane, che arrivava di corsa per le scale, scendendo dalle stanze della mamma, le si fece incontro. Nell'abbracciarla teneramente, mentre gli occhi si empivano di lacrime entrambe, Elizabeth non perse un attimo di tempo e le chiese se erano notizie dei fuggiaschi. Non ancora, rispose Jane. Ma ora che è arrivato il mio caro zio, spero che tutto andrà bene. E il babbo è in città? Sì, vi è andato martedì, come ti ho scritto. E avete avuto spesso sue notizie? Una volta sola. Mi ha scritto poche righe mercoledì per dire che era arrivato bene e per darmi le istruzioni che le avevo chiesto in modo speciale. Ha aggiunto semplicemente che non avrebbe riscritto più finché non avesse avuto qualcosa di importante da comunicare. La mamma? Come sta? Come state voi tutte? La mamma sta abbastanza bene, mi pare, sebbene sia molto giù di morale. È di sopra e sarà molto lieta di vedervi tutti. Non lascia ancora la sua stanza. Mary e Catherine, grazie a Dio, stanno benissimo. Ma tu come stai? Esclamò Elizabeth. Sei pallida! Quanto devi aver sofferto! La sorella la rassicurò, tuttavia, dicendo di star perfettamente bene, e la conversazione fra di loro, che si era svolta mentre i signori Gardiner erano occupati coi loro figlioli, venne troncata dall'avvicinarsi di tutta la comitiva. Jane corse incontro agli zii, dette loro il benvenuto e li ringraziò con un misto di lacrime e di sorrisi. Quando si trovarono tutti nel salotto, le domande che già aveva fatto Elizabeth furono naturalmente ripetute dagli altri due, ma presto compresero che Jane non aveva notizie da dare. Tuttavia, l'appassionato ottimismo che le ispirava il suo cuore non l'aveva ancora abbandonata. Confidava ancora che tutto sarebbe finito bene e qualche mattina avrebbe recato una lettera o da Lydia o dal padre a dare spiegazioni dei fatti e forse ad annunciare il matrimonio. Dopo qualche minuto di conversazione generale, salirono tutti nelle stanze della signora Bennet, che le ricevette appunto come era da aspettarsi, con lacrime e lamenti di rimpianto, invettive contro l'ignobile comportamento di Wickham e gemiti per le proprie sofferenze e per il modo in cui era stata trattata. Biasimava tutti, fuorché l'unica persona alla cui incauta indulgenza le colpe della figliola andavano maggiormente ascritte. Se fossi riuscita a spuntarla, diceva, quando voleva andare a Brighton con tutta la famiglia, questo non sarebbe successo. Ma quella povera, cara Lydia non aveva nessuno che si prendesse cura di lei. Perché mai Foster hanno cessato di tenerla d'occhio? Ci deve essere stata della gran negligenza da parte loro, ne sono certa, perché Lydia non è il tipo di ragazza da fare una cosa del genere se è sorvegliata a dovere. Ho sempre pensato che fossero molto inadatti a prendersi cura di lei. Ma sono stata sopraffatta come al solito. Povera cara bambina. Ed ora ecco che Bennet se n'è andato via. Io lo so che si batterà a duello con Wickham ovunque lo incontri. E poi si farà ammazzare. E che ne sarà di tutte noi? I Collins ci getteranno fuori di qui prima che lui si sia raffreddato nella tomba. E se tu non ci aiuti, fratello mio, non so dove andremo a finire. Tutti uscirono in esclamazioni di protesta contro quelle lugubri idee, e il signor Gardiner, dopo averla rassicurata del suo affetto per lei e per tutta la sua famiglia, le rivelò la propria intenzione di essere a Londra l'indomani per cercare di giovare al signor Bennet in tutti i tentativi di ritrovare Lydia. Non ti abbandonare, inutili paure, benché sia giusto essere preparati al peggio, non c'è motivo di prospettarlo come cosa sicura. Non è ancora trascorsa del tutto una settimana da che hanno lasciato Brighton. Fra qualche giorno è facile che si abbia qualche notizia sul loro conto e finché non sappiamo che non sono sposati e che non ne hanno intenzione, non diamo la cosa per perduta. Appena arrivato a Londra, mi recherò da mio cognato e lo farò venire a casa con me in Gracechurch Street e allora potremo concertare insieme che cosa convenga fare. Oh, caro fratello mio, appunto questo è quel che desidero. E adesso quando vai a Londra, trovali ad ogni costo, ovunque siano, e se non sono ancora sposati, falli sposare. E quanto al corredo, non lasciare che lo aspettino, ma dia a Lydia che avrà tutti i denari che vuole per comprarselo una volta sposata. Soprattutto, non permettere che Ben si batta a duello. Digli in che orribili condizioni mi trovo, che lo spavento mi ha fatto perdere la testa, che ho dei tremiti, dei brividi in tutta la persona, delle fitte nei fianchi, dei dolori alla testa, il cuore mi batte in tal modo che non riesco a riposarne di notte né di giorno. Mi raccomanda alla mia Lidia di non dare ordini per il soccorretto senza essersi prima consultata con me, perché lei non sa quali sono i negozi migliori. Oh, fratello, come sei buono! So che tu riuscirai a tutto. Tuttavia, il signor Gardiner, pur tornando a rassicurarla di fare tutto il possibile per quella causa, non poteva a meno di raccomandarle la moderazione nelle speranze non meno che nei timori. E dopo essersi trattenuto con lei in questo senso finché non le fu servito il pranzo, la lasciarono a dar libero sfogo ai suoi sentimenti con la governante, che le teneva compagnia in assenza delle figlie. Per quanto persuasi che non ci fosse un vero motivo per una reclusione del genere dal resto della famiglia, il fratello e la cognata non tentarono nemmeno di opporvisi, perché la sapevano abbastanza incauta da non tenere a freno la lingua davanti ai domestici che servivano a tavola, e ritennero più opportuno che di tutta la servitù, una persona sola, e proprio quella di cui più si fidavano, fosse messa a corrente di tutti i suoi timori e affanni in proposito.